Cari amici, care amiche, benvenuti a Bruxellando! Ah, che voce squillante! Yeah! Una voce squillante, che bello! Beh, devo compensare per tutte le volte in cui io non posso dire una cosa del genere, tipo care amiche, cari amici, eccetera, eccetera. Bene, bene. Ci fa piacere. Ma scusate, la prossima volta a sto punto lo potete dire in coro. In coro? 1, 2, 3, tutti e tre insieme. Cari amici. Come diceva quel grande cabarettista che era. E il coro. E vabbè, benvenuti, infatti siamo io e Fior D'Aviso, forse arriva anche Mary D, ma arriverà più tardi, magari con un ospite, chi lo sa, Mary D è piena di sorprese, ma intanto noi vediamo che cosa succede. Benvenuti in questa Bruxellando, noi siamo un po' in ritardo, ci dispiace, ma qui... Una Bruxellando uggiosa. Una Bruxellando uggiosa, sì, un po' strana, perché un po' di sole, un po' di pioggia, tempesta, questi giorni abbiamo avuto sole e tempesta, no, tempesta, sole e come posso dire, temporaloni. Ecco. Da noi si chiama tempo di aprile. Tempo di aprile, vabbè, sta bene, insomma, l'aprile in Ungheria è come l'estate. Qua purtroppo si chiama tempo di giugno, ragazzi. È così, tempo d'estate è fatto così qui a Bruxelles. Comunque faceva caldo, si stava bene, magari avete anche goduto, insomma, 3 giorni di fila con un lunedì di festa, non è stato per niente male. Giorgio, a proposito di tempo, vado già con un evento, perché il titolo è proprio legato al clima di questi giorni. Vada con l'evento. La tempesta di William Shakespeare. Oh... La vita è belga presenta la tempesta di William Shakespeare il 14 e il 15 giugno prossimi al teatro Ariersen, 32 Rue Chambéry a Etterbeck, 1040. È lo spettacolo di fine corso di un atelier di teatro, avrà luogo il 14 di giugno alle 4.30 e il 15 di giugno alle 19. Per informazioni e prenotazioni la vita è lavitaebelga.be. Ma non c'è informazione sul prezzo per caso? No. Aia. No, perché penso che sia contributo, se non sbaglio, contributo libero, perché appunto è per sostenere questo atelier di teatrale, diciamo un corso. Però trovate le informazioni sulla vita belga sulla loro pagina Facebook, hanno creato una pagina Facebook sull'evento e soprattutto sul loro sito. Molto bene. Se no dovete scrivere a clorinda@lavitaebelga.eu. Bene, lavitaebelga.eu che fornisce sempre delle attività nuove, insomma, si danno da fare, è una delle cose carine che succedono a Bruxelles, proprio la vita è belga. E io invece che ho qui sotto di me, sotto mio naso, ho invece un altro evento, un'esposizione. Non ci sono solo memorie di migranti diverse e complesse che si costruiscono secondo le epoche, le generazioni, gli spazi, no? Ci sono anche altre cose. In questo progetto partecipativo Nazione di Quartiere fa da filo conduttore l'esplorazione delle memorie dei migranti turchi e marocchini, una parte importante di Bruxelles, soprattutto in certi quartieri. Quindi delle guide soggettive sono state elaborate da 4 scherbe quasi, bellissimo, scherbe quasi, che sono andati incontro a uomini e donne di origine turca marocchina con lo scopo di a spiegare, di far vedere la loro traiettoria, la loro storia di abitanti che sono nati, che sono arrivati qui come un fenomeno dietro il fenomeno della migrazione, e quindi loro vissuto nel quartiere appunto di Scarbec. Le guide sono insolite, sono libretti rilegati che possono essere prestati in biblioteca, che permetteranno di scoprire corsi di migrazione, di integrazione e delle personalità del tutto particolari. Questi scritti degli abitanti di origini diverse e di belgi viventi a Scarbec non fanno altro che stimolare la pluralità e fanno parte della ricchezza dell'identità collettiva. Il vernissage è già stato, perché è stato il 17 maggio, quindi circa un mesetto fa, però questa esposizione che si tiene alla Bibliothèque Cézanne, Boulevard Lambermont a Scarbec, ovviamente, Bibliothèque Cézanne, Boulevard Lambermont, si terrà fino al 31 luglio, quindi c'è tempo, ma è una cosa estremamente interessante, direi, vedere come si è voluto Scarbec e sentire le storie di coloro che hanno vissuto l'emigrazione, sono arrivati in un paese straniero, come siamo arrivati noi in questo paese straniero, noi italiani, un bel po' di tempo fa. E si vede che rimaniamo sugli occhi aperti sul mondo, anche nel nostro piccolo, perché l'altro evento che vi abbiamo portato stasera è il Village du Monde, cioè il villaggio del mondo, che si organizza sul Marché aux Poissons e presenta 80 pagode con esposizioni che presentano la cultura, l'arte e la cucina tipica di una grandissima varietà di paesi del mondo. Ci saranno degli spettacoli, anche le jongleurs, dei clown, anche teatro itinerante, eccetera, eccetera, quindi tante attrazioni. E potete godervi questo evento fino al 15 di giugno a Marché aux Poissons, e potete visitare il sito www.villagedumonde.eu per avere maggiori informazioni. Va bene, mi sa che per quanto riguarda la parte di agenda direi che potremmo fermarci qua. Sì, George, mi viene solo da aggiungere, di ricordare di nuovo a tutti i nostri ascoltatori che il Festival del Film di Bruxelles è iniziato questo weekend e durerà fino al weekend prossimo, per cui ogni sera, ogni pomeriggio ci sono numerose proiezioni, ci sono vari premi, c'è una giuria, insomma, per gli amanti del cinema è un appuntamento assolutamente da non perdere. Poi, se il tempo è clemente, fanno anche quelle bellissime proiezioni en plein air, come chiamano loro, che insomma sono veramente piacevoli, ti danno un avant-goût di estate che insomma che la vogliamo un po' tutti. Quindi ricordiamo appunto questo evento che Bruxellando comunque segue anche sul blog. Che non è il BIF, perché qui a Bruxelles ce ne sono. No, Giorgio, qui a Bruxelles ci sono un sacco di festival del film. Questo è veramente il festival del film di Bruxelles, è internazionale, vi sono diversi film, non c'è una categoria diciamo stilistica precisa, mentre il BIF è il fantasy film, quindi il film fantastico che ha luogo di solito tra marzo e aprile, più o meno intorno a Pasqua. Piuttosto ce n'è anche un altro che abbiamo sempre seguito, il Festival del Film Mediterraneo, che di solito ha luogo tra fine novembre e inizio dicembre, insomma, ma ce ne sono tantissimi. Una volta c'era anche il Festival del Film Archeologico, c'è il Festival del Cortometraggio, e chi più ne ha e più ne mette, insomma. E vabbè, insomma, infatti in questo tempo, che non so se sarà Clemente o Antonio, perdonatemi la battutaccia, ma c'è una cosa, scusate, cioè quasi non l'abbiamo visto, ma c'è la settimana degli alimenti organici, biologici, ovvero sia, questo mi era veramente sfuggito, devo mi è sfuggito. Adesso ho visto una cosa di sfuggita e proprio mi è venuto il dubbio. In effetti dal 7 fino al 15 giugno c'è la settimana bio, con un sacco di eventi, quindi davvero vi raccomando, cioè noi non abbiamo fatto la cernita per voi, però sono sicura che ci saranno dei mercati e vari altri eventi attorno agli alimenti bio. Si potranno visitare delle aziende agricole che adottano la produzione biologica, quindi vi raccomando di consultare il sito www.semainebio.be e informarvi e godervi anche questi eventi. Ma pensa te, cioè, la settimana biologica qua ci sfuggiva, no, questo sarebbe stato veramente un peccato, un vero peccato. Ripeti, dove esattamente? Ovunque, cioè, questo è per tutto il Belgio, ci sono degli eventi un po' sparsi per tutto il paese, anche a Bruxelles generalmente ci sono tante cose da fare collegati a... Ma sapete perché ci dimentichiamo degli eventi? Perché ce ne sono troppi. Alla fine ce ne sono troppi. Bruxelles concentra nei mesi primaverili / estivi una sequela di eventi che uno poi non capisce più niente, come se non ce ne fossero nessuno. L'effetto finale è che uno se li dimentica. Però invito tutti a seguire il nostro sito radioalma.eu/bruxellando, dove trovate della pubblicità sugli eventi che noi vi consigliamo, e a destra un link verso una selezione di eventi a Bruxelles. Quindi, insomma, vi ricordiamo che li potete trovare da noi e ascoltandoci tutti i martedì sera, vero Giorgio? Assolutamente sì. Il blog di Bruxellando è altrettanto importante quanto la trasmissione stessa, perché ci trovate le interviste passate, ci trovate le vecchie puntate, ci trovate appunto un qualcosa di dinamico che è il suo l'agenda culturale. È il suo prolungamento. È il suo prolungamento, l'agenda culturale già selezionata. Poi qualcuno potrebbe dire, ma questa agenda non è che mi piace tanto, preferisco, bene. Comunque da lì si parte dal blog di Bruxellando e si va verso altri lidi. Infatti George, prima di andare ad altri lidi magari letterari con Fiordaliso, quello che hai detto te è giustissimo. Se avete degli eventi, ci volete segnalare eventi, partecipate ad eventi che ritenete importanti da condividere con tutta la comunità italiana e non a Bruxelles, basta mandare un'email a bruxellando@gmail.com o a contattarci via Twitter, che insomma cercheremo di darne visibilità. Assolutamente, questo a Bruxellando ormai lo sapete, è il viaggio degli italiani, da parte italiana a Bruxelles, quindi sentite questo blog come anche vostro, questa trasmissione come una vostra trasmissione, per cui se avete suggerimenti, idee, eventi da pubblicizzare, benvenuti, siate i benvenuti, anzi siete i benvenuti, perché è solo creando una comunità attorno anche a questa trasmissione, contro Bruxellando, che già contiene anche altre e raccoglie anche altre associazioni come abbiamo appena citato La Vita è Belga, ecco, in questo modo possiamo dare veramente vita e forma a una comunità, come tanti italiani, che è sempre più grande, sempre più importante qua a Bruxelles. Oh George, ma in questo momento i nostri ascoltatori che cos'è che stanno aspettando? Ogni settimana aspettano un momento topico. Aspetta il momento topico, che questa sera si topicizza in anticipo. Sì, però topicizzandoci in anticipo e in onore dei mondiali brasiliani, una sigletta un po' brasilero, tipo pepere, pepepe, così. Pepere, pepepe, pepepe, pepepe, pepepe, librangolo, golo, librangolo, golo, librangolo. Non è male, non è male. Vi assumo. Devo cantare La ragazza di Ipanema in sottofondo. Io faccio solo la raccattapalle, ragazzi. va bene. Sì. Cioè, no, devi estrapolare sulla ragazza di Ipanema. Devo estrapolare? Sì. Ah, va bene. Lasciamo perdere. Piuttosto concentriamoci sulla lettura. Una cosa mai linda. Stasera vi ho portato un libro di Elizabeth Gilbert, che sicuramente conoscete, da un libro che ha fatto un sacco di successo, che si chiama Mangia, Prega, Ama, e che quindi ha anche, secondo me, un po' portato a mettere questa scrittrice un po' nella scatolina delle persone che scrivono diciamo in modo ispirante sulla loro vita, sulle loro scelte, un po' lettura femminile categorizzata. Quindi prima di tutto vorrei sfatare questo mito. Elizabeth Gilbert è una scrittrice che ha scritto già un sacco di cose che non c'entrano niente con Mangia, Prega, Ama prima, e ha scritto, ha ricominciato finalmente a scrivere di nuovo delle cose che non c'entrano niente con Mangia, Prega, Ama. Cioè, uno è vittima anche lei era vittima del successo del proprio creato. Ed effettivamente sicuramente il successo di questo libro ha portato al fatto che il suo più recente libro, che si chiama Il cuore di tutte le cose, è stata tradotta con la velocità del lampo in zilioni di lingue, incluso l'italiano e anche l'ungherese, eccetera eccetera. Quindi il successo comunque almeno ci porta le sue fatiche un po' più alla svelta. Il cuore di tutte le cose davvero non c'entra con Mangia, Prega, Ama. Si tratta di un romanzo ambientato nel 1800 e che è una storia un po' più di respiro epico, cioè relativamente lungo. Si tratta della storia di una famiglia un po' fuori del comune. In effetti è quasi un si tratta di varie generazioni di botanici. In questo periodo molto eccitante per la botanica, perché durante l'Ottocento finalmente si è scoperto l'America e anche altri posti nel mondo, anche dal punto di vista botanico. Quindi in quel periodo portavano verso l'Inghilterra, da ogni angolo del mondo, nuove specie appena scoperte, che poi venivano anche coltivate nelle serre di vari giardini, di cui il più famoso è il Kew Gardens, che anche oggi è uno dei posti più famosi, dei giardini molto attraenti da visitare, e che vorrei visitare, è sulla mia lista di cose da visitare nell'Inghilterra. Kew Gardens. Sta per Queen's Garden o? No, è Kew Gardens proprio. E in quel periodo, come sappiamo, comunque la botanica era un guadagno molto importante, cioè più si portavano delle piante rare, più si poteva anche guadagnare da questo affare. E il protagonista del libro è un uomo che non ha educazione, ma che riesce a fare tanto successo con questo. Ha delle buone intuizioni, per esempio scopre il modo di nobilitare l'albero da cui scorza si fa la chinina, e quindi che contiene la sostanza chinina con cui lottavano contro la febbre in quell'epoca, e scoprendo anche un modo di far crescere questi alberi anche fuori dal Sud America, fa la sua fortuna. E poi fonda la sua propria famiglia, decide di andare in America per farlo, perché l'Inghilterra comunque non è che lo accetta tantissimo, perché essendo poco educato e essendo anche una persona che molto diretta, ma secondo me non piacerebbe, cioè a molti non piacerebbe il protagonista da questo punto di vista, uno dei protagonisti. Quindi lui decide di fondare la sua famiglia in America. E adesso arriviamo alla vera protagonista, che è Alma, che è la sua figlia. Qui c'è Alma. Alma, Radio Alma, come e Radio protagonista Alma. Forse anche lei è una fan di Radio Alma e ci ha ascoltato già ai tempi. Sì, già lo presentiva. Esatto. Aveva questo presentimento. E Alma riceve un'educazione fuori del comune, cioè per il padre non è importante se è una figlia, quindi una femmina, le dà tutte le possibilità di educarsi e di affinare la sua mente, ed effettivamente Alma si dimostra una ragazza con tanti talenti, una con la mente matematica, una che ha un talento innato per la tassonomia, e che anche lei quindi si butta sull'area della botanica. E Alma vive la sua vita in modo molto tranquillo, semplicemente gestendo un po' gli affari del padre, occupandosi dei suoi muschi, si chiamano dei licheni muschi. Sì, licheni, muschi, sì, tu hai la roba verde che cresce un po' ovunque, sì. Licheni e muschi. Beh, io credo che siano sarebbe più licheni che muschi. Moss. Sì, credo che siano più licheni che muschi, però insomma, generalmente chiamato muschio, quello che si mette sul presepe a Natale. E comunque, in base allo studio dei muschi, lei già comincia a capire anche la lotta che anche a questo livello basso dei muschi, che sono di varissimi tipi, come lottano con l'uno contro l'altro, e come in un tempo molto lento si guadagnano dei territori, alcuni si ritirano, gli altri vengono, e comunque il muschio è una delle specie che appare proprio per primo ovunque, cioè sopravvive quasi in ogni situazione, cioè c'è un muschio adatto ad ogni situazione, possiamo dirlo così. E quindi lei si affascina di questo mondo un po' microscopico e poco esplorato, e diventa una una studiosa dei muschi molto rispettata. Però la sua vita comunque è abbastanza tranquilla, abbastanza chiusa, fino al momento in cui arriva nella sua vita Ambrose. Ambrogio. Ambrogio. E Ambrogio, Ambrogio è un personaggio molto interessante, sconvolge un po' la vita di Alma, non ve lo dico come, perché non dovete sapere tutte le cose. L'importante è che ad un certo punto questa relazione porta Alma fino al... fino a Papete, nella Polinesia. Mm. E quindi... Papete. A Papete. Pensavo alla discoteca di Milano Marittimo. Il famoso Papete. Il famoso Papete. Ma lei arriva alla Papete vera e di nuovo l'autrice ci mostra un altro aspetto di quei tempi, quello del viaggio, che c'erano un sacco di donne viaggiatrici, di questo ce ne dimentichiamo, ma c'erano un sacco di donne che si sentivano abbastanza forti, abbastanza indipendenti, che già in quell'epoca si mettevano sulle navi e prendevano e andavano anche nei posti più nascosti. Esistono delle memorie molto interessanti di viaggiatrici di cui forse nel futuro parleremo ancora. E quindi Alma arriva a Papete e via varie vicissitudini, alla fine anche lei, più o meno quasi contemporaneamente con Darwin, anche lei arriva alla conclusione che qua c'è una teoria dell'evoluzione. Lei lo chiama in un altro modo, adesso non mi ricordo neanche come, comunque anche lei arriva a questa teoria dell'evoluzione. E quindi c'è anche questo aspetto molto interessante nel libro, quello del come le idee arrivano a scoppiare ad un certo punto. È come se si maturassero e ad un certo punto non potessero fare altro che scoppiare nella mente di vari scienziati, di varie persone che sembrano avere delle intuizioni quasi allo stesso momento. E quindi comunque lei sceglie di non pubblicare perché è una perfezionista. Comunque, anche nella sua vita di dopo c'è questo aspetto della comunicazione o della comunicazione delle menti, questa realizzazione, questo impeto delle idee che arrivano e prorompono e trasformano il modo di pensare. Quindi è un libro che da un lato è interessante per la sua storia, per il suo personaggio, principale, è interessante anche per questo mondo della botanica che esplora in modo molto, molto piacevole, anche molto, molto vivo, ed è interessante anche per queste riflessioni sulla nascita di queste idee, questa maturazione e nascita delle idee. Quindi dimenticatevi di Elizabeth Gilbert come autrice di Mangia, Prega, Ama e avventuratevi nel Il cuore di tutte le cose, che non vi ho nemmeno spiegato, non sono arrivata nemmeno a spiegarvi perché il titolo del libro Il cuore di tutte le cose, però a Beh, me sembra può. Che qua... Abbiamo ancora qualche minuto se vuoi entrare nel... Soltanto per anticiparvelo, si tratta della teoria, di una teoria mistica che dice che Dio ha lasciato una sua traccia in ogni cosa che è sulla faccia della terra e che quindi lo esprimono la perfezione del creato nel loro piccolo, ma sono anche un elemento dell'insieme che noi non riusciamo a mettere insieme. In effetti il titolo in inglese è The Signature of All Things, perché tutti questi elementi sono una firma di Dio che poi sta a noi ad andare a decifrare. Ecco, qua mi fermo, leggetelo, interessatevi, è un libro davvero bello, a me mi è piaciuto, quindi ve lo raccomando. Bene. Ed eccoci ritrovati di nuovo, siamo tornati in studio dopo questa piccola pausa pubblicitaria interessante, perché ritorna ancora il tema dell'AIDS, uno pensava sconfitto, non se ne parla più, e invece è lì dietro l'angolo. E bene, dopo la introduzione di Librangolo, invece abbiamo al telefono una nostra carissima amica, ormai un momento fisso di Brussellando, una delle pietre miliari, uno dei fari attorno a cui gira Brussellando. Carissima Liliana! Che piacere sentirti, come stai? Molto bene, tu? Anch'io, meglio, bene. Meglio, ecco. Quindi, meglio. Ci sentiamo in buona salute, diciamo. Ecco. Questa è una cosa fondamentale. È un piacere davvero sentirti, perché di solito sento Marilena, ma voi non vi sento, vi sento meno, o Daniele anche ultimamente, e te, era un pezzetto che non ci sentivamo. È vero, è vero, è vero. Io sono presente quando c'è Mary, ma Mary sai com'è, è effervescente, quindi prende. Sì, sì, sì. Allora, questa sera Liliana, se capisco bene, vorremmo parlare di un nuovo libro che è da poco uscito, o deve ancora uscire? No, è uscito proprio da pochi giorni. Ecco, eravamo proprio lì. Avete proprio la notizia in anteprima. Praticamente notizia in anteprima. E questa novità di Liliana Ugolini, che voi tutti ormai conoscete, cari teleascoltatori, si chiama Sororità. Esatto, bravo. E ne dice qualcuno di questo libro dice che è un'autobiografia plurale, cronaca familiare. Sì, indagine. Dimmi. Sororità vuol dire è un rapporto fra sorelle, diciamo. Sororità è l'altra faccia della fraternità. Ecco, bravo, è l'altra parte, quindi sororità, però in questo caso c'è anche mio fratello, perché questo libro è scattato proprio con la morte di mio fratello e a questo punto ho sentito la necessità di raccontare questi tre fratelli e le due sorelle principalmente, che era tanto che ci pensavo, ma per vari motivi non mi decidevo mai a scriverlo, ma poi è diventata un'esigenza e quindi ecco perché esce questo libro. La particolarità, se sì. Posso seguitare a parlare. Sì, prego, prego, perché poi comunque le domande ce le ho in testa, vai pure. Ecco, è che questo libro esce dopo che tutti i miei documenti sono stati depositati all'archivio di Firenze. Nel settore archivio della scrittura delle donne e quindi questa narrare delle sorelle che a Firenze insomma siamo abbastanza conosciute, perché mia sorella è pittrice, io scrivo, mi interesso di teatro e diciamo è questa figura che non c'è di mio fratello, ma che in effetti c'è come ombra e quindi il libro narra di questa storia, naturalmente ripescando tanti avvenimenti, però diciamo è stato pubblicato poi dall'Archivio di Stato con la Sefe Editrice di Firenze proprio perché appunto lì ci sono andati tutti i miei documenti, che ha un senso anche raccontare queste cose in quanto appunto tutte tutti i miei documenti sono all'archivio, quindi questo è molto legato all'archiviazione, alle storie diciamo di chi naturalmente è depositato lì, ecco. La storia che tu racconti dal punto di vista della sorellanza o sororità, sì. Così per spiegare, la storia che tu racconti, dici, è stata causata dalla scomparsa di tuo fratello, però ce l'avevi già in testa prima, hai detto. Sì, sì. Allora, fermiamoci un attimo sul nome. Che differenza c'è? Qual è la sfumatura che ci vuoi raccontare con il titolo, questo cambiamento da fraternità a sororità? Qual è la prospettiva che cambia? La sororità è diciamo un modo di sentire, è un quasi un sesto senso, perché questa sororità poi, a parte che appartiene a due sorelle, a queste due sorelle e anche al fratello, si allarga poi anche ad altre persone, è un modo di sentire, è un linguaggio, no? È un modo di essere nel campo specialmente dell'arte, che io dico sempre l'arte è un linguaggio e quando si incontra qualcuno che fa arte è come trovare in terra straniera una persona che tu ritrovi con delle caratteristiche che tu riconosci, ecco. E la sororità è questo, appartiene e inizia appunto con questo rapporto tra due sorelle, ma è molto più vasta, è un sentire, diciamo, ecco. E dicevamo, quindi è questo sentire, questo riconoscersi. Tu dicevi che con tua sorella, che anche lei è un'artista, come sei riuscita ad inserire il fratello? Quindi, perché qui giochiamo fra la sensibilità dell'artista, di colei che trova in un'altra persona un punto di comunione, una stessa lingua, un idem sentire. E il fratello come riusciva a incastrare al di là del legame familiare? No, entra anche lui perché anche lui è un creativo e che è sempre rimasto molto, diciamo, a parte, non si è mai proposto, ma noi lo conosciamo e sappiamo della sua creatività. Lui lavorava molto con il legno, era appassionato nel lavorare il legno e quindi per tutta una vita lui ha sentito molto la manualità e la creatività del fare, no? Proprio con le mani, mentre invece mia sorella, anche lei nella pittura, diciamo, però siamo un pochino più surreali, no? Io poi nella scrittura, ma lui era più concreto nella sua creatività e quindi questo linguaggio che ci accomuna praticamente ci appartiene anche a mio fratello, ecco. Scatta il racconto dalla sua morte, ma naturalmente il racconto è un percorso anche sulla sua vita precedente. Ecco. Certo, quindi ricapitolando, questa è una storia familiare, cioè un ordine cronologico o è più un ordine di emozioni? Il titolo dice Ritratti dal diario del 2009, mm-hmm. Capito? Sororità, certo. Ritratti dal diario del 2009. Quindi per un anno io ho scritto questo diario che è scattato appunto da questo avvenimento e da questo diario vengono fuori dei ritratti anche psicologici, dei ritratti caratteriali, caratteri anche che vanno all'indietro e che rientrano oppure hanno dei futuri nei figli, quindi sono ritratti dal diario del 2009, ecco, per un anno ho scritto questo diario e questa è la pubblicazione e la sororità è questo filo che ci accomuna, alcuni di questi personaggi sono accomunati da questo linguaggio della sororità. E, scusa, stavo pensando che nelle ultime puntate di Brussellando abbiamo avuto a che fare spesso con la storia. Io recentemente ho letto Pennacchi con Canale Mussolini, che è un libro insomma mai datato, e che è molto bello. E poi abbiamo parlato con Riccardo Ruggeri la settimana scorsa, in cui ha scritto un libro in cui racconta la propria vita, le persone che ha incontrato. Quindi c'è un dipanarsi della storia con la descrizione delle persone che ha incontrato, il posto che avevano in ordine, direi quasi cronologico, ma anche proprio come un albero che fiorisce nella sua storia personale. Allora mi chiedo, nel diario del 2009 si ritrova i ritratti, sono semplicemente ritratti cronologici di quell'anno o è un motivo da cui partire, un punto da cui partire per parlare, e mi sembrava che l'avessi anche detto, per parlare poi di quello che era successo prima, sia del passato che del futuro attraverso i figli? Quando si fanno libri di questo genere, insomma, in cui si racconta situazioni familiari o cronistorie, poi questo è molto basato anche su documentazioni, su carteggi, ci sono molti documenti dentro il libro, quindi appartengono, naturalmente la storia entra dentro, anche la storia che ci ha proprio sfiorato, quella politica, quella diciamo vissuta. Naturalmente noi abbiamo, contiamo della guerra i 5 anni dal 40 al 45, eravamo bambini ma ce li ricordiamo tutti molto bene, e quindi poi i vari cambiamenti nel tempo nel quale poi siamo cresciuti, in cui abbiamo preso le nostre strade, quindi la storia entra anche qui, ecco. È bellissimo, ci sono veramente dei ritratti, sì. E ciascuno ha un titolo proprio, sono delle breve pagine, sono pagine molto dense, permettimi di ricordarmi qualcuno, insomma, un po' Mr. Wynn che faceva i ritratti alle persone, anche qui ci sono dei ritratti, ci sono proprio dei bozzetti, non sono lunghi, il ritratto dura 2-3 pagine, 4 pagine, è proprio una descrizione. In che ordine hai scritto queste descrizioni? C'è un ordine particolare o è semplicemente così? No, ci sono anche dei flashback, quindi non è un ordine cronologico, ci sono anche molti ritorni e attualità. Nell'attualità si ritorna e si ripesca, però diciamo un filo conduttore c'è anche. Tu lo sai che io sono molto legata all'idea dell'umanità burattina, no? E quindi, ah, certo. Questo c'è già. E quindi in questo libro ci sono degli esergi tratti dal famoso il teatro di marionette di Kleist. Certo. Ai quali praticamente è la precarietà del vivere, no? Che sì, viene avvalorata da questi esergi, e che naturalmente si trovano nel libro, perché il libro è nel raccontare la storia. Si percepisce proprio, sì, diciamo, questa precarietà, ecco. La precarietà è, infatti, è vero, e credo che la precarietà sia anche nel fatto che le marionette, come tu scrivi, presentano il vantaggio di non essere soggette alla legge di gravità. Bravo. E quindi questa è una degli esergi che appunto dicono non sono soggette, quindi proprio inizia, mi pare, il libro dicendo che in questo volare della marionetta si prende la marionetta stessa la briga di parlare anche per mio conto, tant'è vero è un po' in prima e in terza persona il racconto, perché è come se questa marionetta, che è un'ombra, parlasse. E quindi anche questa scansione di questa persona che non c'è più, questa ombra, è molto marionetta. Insomma, ecco, non è solamente una cronistoria, non è solamente una cosa storica, ma è anche un qualcosa che ha un significato diverso. Ecco. A questo punto però mi costringi, dopo i ritratti e quant'altro, dopo queste, quello che abbiamo detto fino ad adesso, mi costringi a farti una domanda. Tu che hai costruito dei ritratti su delle persone che ci sono e che non ci sono più, tu che hai costruito un'idea attorno a un linguaggio che è quello della sororità, che è un idem sentire ma anche un linguaggio, e che in questo libro trascorri e verifichi in qualche modo la tua vita, quella che era prima, e vedi in qualche modo anche il futuro. Ecco, io vorrei chiederti questa cosa, che a me preme particolarmente in questo periodo, che è il senso di quello che è successo fino ad adesso. Cioè, il senso delle cose per Liliana Ugolini. Questo è molto difficile, è una domanda alla quale difficilmente credo si possa rispondere, perché considerando gli uomini, diciamo, preda della precarietà, cioè i famosi burattini, certo, che non hanno in fondo delle sicurezze se non, diciamo, questa precarietà, e quindi è difficile dire il senso. Il senso bisognerebbe avere una gran fede, bisognerebbe avere una fede in qualcosa di forte, che io, insomma, per la mia esperienza di vita, piano piano si è affievolita e io vedo le cose quasi senza senso, per rispondere alla sua domanda, ecco. Beh, io ti ringrazio davvero di questa, di avermi fatto partecipe di questo tuo pensiero, perché è vero che le cose, soprattutto nella complessità, la complessità in cui viviamo, sì, ci rende difficile vedere il cammino, ci rende difficile vedere sia la via da seguire sia quella che abbiamo percorso. Rischiamo di perderci nei meandri, perché è tutto un meandro e ci sono poche vie maestre. Quindi ognuno poi trova la sua via maestra in modi e forme diverse. Però ti ringrazio, perché è importante capire che anche le persone estremamente sensibili come te, in grado di scrivere in queste pagine, di chiarire, di scrivere dei ritratti uno dietro l'altro, uno presso l'altro, tutti legati al filo conduttore, è veramente incredibile, insomma, e ci piace sapere che sei una persona che riesce anche a dire: sì, nonostante tutto questo, io non ho trovato un senso, a volte lo perdo. Quindi è una cosa che ci fa sentire molto, insomma, mi fa sentire molto vicino a te, ecco. Ecco, grazie, mi fa piacere questo, perché effettivamente oggi siamo troppo tutti pieni, o perlomeno sono pieni di sicurezze. A me c'è una cosa che mi fa paura, è proprio la sicurezza, perché ho prove evidenti che le sicurezze non corrispondono a quello che noi uomini possiamo realizzare, ecco. Quindi ti ringrazio, mi fa piacere di essere d'accordo con te, perché ho molta stima di te e mi fa grazie. Piacere quello che tu dici. Grazie infinite a te. Purtroppo il tempo è tiranno, io ti devo salutare e ti ringrazio infinitamente per questa intervista. E spero siamo sicuri che ci risentiremo presto. Bene, grazie tanto anche a voi. Salutami tutti nello studio. Sì, lo farò. Grazie Liliana. Ciao. Ciao, ciao. Ed eccoci qui, cari amiche, cari amici. Maridì questa sera un po' in ritardo perché è impegnata in un altro bellissimo evento che si è appena concluso, quindi questo spiega anche il motivo del ritardo, perché abbiamo conosciuto questa sera proprio alla Piola Libri la scrittura di Paolo Di Paolo. Come avrete potuto leggere dal nostro podcast di questo pomeriggio, Paolo è stato tra l'altro finalista al Premio Strega lo scorso anno con Mandami tanta vita. Questa sera però vorremmo, e abbiamo pochi minuti, quindi è veramente un assaggio di quella che è la scrittura di Paolo, che lui ci raccontasse invece della sua ultima fatica letteraria, che è Tutte le speranze, Montanelli raccontato da chi non c'era. Paolo, benvenuto a Radio Alma, brussellando. Ciao, eccomi. Quindi racconta ai nostri ascoltatori come nasce il tuo incontro, come è avvenuto l'incontro con Indro Montanelli. Ma se uno ha una passione da bambino ha anche dei miti, e nel caso specifico io avevo questo mito del grande giornalista, perché avrei voluto essere un giornalista, poi le mie strade sono diventate un po' diverse, e Montanelli, che lo si ami o lo si odi, rappresentava il patriarca del giornalismo italiano. Ho cominciato a scrivergli delle lettere, questo nome un po' buffo che ho, che non è uno pseudonimo, che coincideva con i 15 anni che all'epoca avevo, lo insospettì, lo incuriosì, e lui mi fece telefonare. Quindi il libro parte da questa telefonata che mi fece tremare un po' le gambe, le passo il dottor Montanelli, arrivò questa voce dal Corriere della Sera in un pomeriggio dei miei 15 anni, e c'era Montanelli dall'altro capo del filo. E naturalmente poi è seguito un incontro. Montanelli, fino alla fine dei suoi giorni, diciamo così, è stato per me un punto di riferimento, un interlocutore, e sono state tante le lettere, anche e soprattutto quelle pubblicate poi nella sua stanza, che hanno, diciamo, puntellato questo periodo. Ahimè, il radio veramente il tempo è tiranno, però devi sapere che Brussellando si occupa di libri, quindi incontriamo scrittori e non solo, comunque persone che sono confrontate alla scrittura. Quindi secondo te chi era il lettore tipo? di Montanelli. Montanelli aveva quel tipo di lettore che forse oggi, parlo per l'Italia, non esiste più, cioè il lettore del giornalista, quel tipo di lettore che va a comprare il giornale per leggere Montanelli, per leggere la Fallaci, per leggere pochi altri effettivamente hanno avuto questa fortuna di avere un pubblico di lettori. Forse oggi l'ultimo patriarca del giornalismo italiano è Eugenio Scalfari, che naturalmente viene seguito da legioni vere e proprie di lettori che ogni domenica leggono i suoi editoriali. Ecco, Montanelli era questa cosa qui, uno andava in edicola e comprava il suo giornale o i giornali dove scriveva Montanelli per leggere lui. Addio Indro, il Novecento, il tuo secolo, ora è davvero finito, scrisse Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, ricordando il giornalista e amico appena scomparso. Concordi con questa riflessione? Sì, Montanelli è stato il Novecento. Montanelli è nato nel 9, è morto nel 2001, a un passo dall'11 settembre, è morto nei giorni in cui a Genova infuriava la battaglia. E effettivamente la sua vita coincide con l'intero secolo. Ecco perché effettivamente anche chi lo detesta, chi non lo ama, chi è a distanza dalle sue posizioni politiche, deve riconoscere che leggere la vita di Montanelli, come ho cercato di fare in questo libro, a ritroso, senza giudicare, senza essere né un esaltatore né un denigratore, significa leggere l'intero Novecento, con tutte le ombre, con tutte le contraddizioni e, come dice il titolo, con tutte le speranze. Cosa pensi che penserebbe Montanelli dell'Italia di oggi? Avrebbe un rapporto complicato con l'Italia di oggi, qualcuno lo chiamava anti-italiano, ma non so bene cosa significa essere anti-italiani. Sicuramente dell'Italia non gli andavano giù molte cose, non gli andava giù la vocazione trasformista, la vocazione demagogica, l'uso politico della violenza, tante cose che ancora nell'Italia di oggi serpeggiano, e questa disgregazione assoluta dell'identità nazionale, che poi era un tema che gli stava a cuore. Allora, sono curiosa perché mi resta ancora un minuto, quindi ne posso approfittare. In un paese, cioè l'Italia, più abituato all'epica, no? Rispetto a quella che è la nostra tradizione, tu scrivi che Montanelli starebbe tra Hemingway e Truman Capote, e la sua lunga esistenza sarebbe pronta anche per un soggetto hollywoodiano. C'è tutto il necessario. Sì, io credo che sia vero. Adesso non voglio esagerare né fare paragoni eccessivi, però se ci pensate un attimo, questi 92 anni hanno veramente attraversato tutte le tempeste del secolo, come dicevo, ma lui ha conosciuto Hitler, ha visto proprio a quattro occhi, ha conosciuto Salazar, Franco, Golda Meir, Giovanni XXIII, Evita Perón. Dentro un soggetto hollywoodiano ci sarebbe quest'uomo che incontra i potenti del Novecento, i grandi del Novecento, che sta a tu per tu con un papa, è il primo giornalista mondiale a intervistare un papa, intervista Giovanni XXIII. Insomma, in tutta questa vita c'è talmente tanto che in un paese, come dico, che avesse un po' più di sensibilità per l'epica, Montanelli sarebbe un eroe o, come dice la collana in cui è inserito questo libro, un altro eroe, un eroe un po' a modo suo, insomma, forse anche un antieroe per certi versi. C'è un tratto dell'uomo Montanelli che mi sta a cuore, che ti sta a cuore. La solitudine, questa che chiamo la maestosa solitudine di un'esistenza. Mi sembra che in un tempo in cui facciamo gruppo, apparteniamo alle cerchie di Facebook, siamo propensi, diciamo così, sempre a definire i contorni di una nostra genga, di una nostra appartenenza, si staglia quel tipo di solitudine adulta su un panorama di, appunto, diciamo, di mediocrità. A me pare che il grande talento coincida sempre anche con una grande solitudine. Cito Montanelli, parafrasando ovviamente il tuo libro. Viviamo in una società soffocata, omologante. Gli anarchici hanno provato a cambiarla con le bombe e io stesso non conosco modo migliore. Forse qui esagerava, ma era l'anarchico che veniva fuori dal Montanelli più moderato. Magari era una bomba non di pensiero, di pensiero. Cari amiche, cari amici, questo veramente è solo un assaggio della scrittura di Paolo Di Paolo, che ritornerà con noi, ospite questa volta dal telefono, il prossimo 15 luglio. Quindi bene, continuate a seguirci, continuate a sintonizzarvi. Beh, su, però lo dobbiamo dirlo ai fan. Brussellando, assolutamente. Perché i fan si stanno già muovendo. Sì, appena hanno saputo che c'era Paolo Di Paolo. Mi sembra difficile, ma insomma. È vero. E intanto, per quanti volessero, Tutte le speranze, edito da Rizzoli. Quindi potrete saperne veramente di più su un Montanelli raccontato da chi non c'era. Ebbene. Ebbene, allora.